e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara Nicoletta, buon Natale. Grazie, buon Natale anche a te. Hai visto che non riusciamo a stare senza cuore e denari neanche in questo 25 dicembre e non potevamo non essere qui per fare gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, a cui naturalmente auguriamo di trascorrere questa giornata con serenità e con le persone più care. E a proposito di persone più care, la donna di cuore e la donna di denari non potevano certo mancare a questo appuntamento. Per oggi abbiamo preparato una puntata speciale, la prima parte la dedichiamo in modo particolare ai più piccoli ma anche ai loro genitori. Nella parte di denari scopriremo come si può parlare di economia con i bambini attraverso uno strumento molto speciale, le fiabe. Con noi ci saranno l'autrice del libro Fiabe e Denaro, Emanuela Rinaldi, e Antonio Caielli, un nostro amico, un educatore finanziario. E di favole parleremo anche nella seconda parte del programma, Deborah. Le fiabe classiche raccontano i destini del mondo, lo diceva Italo Calvino, e offrono una visione del reale da un altro punto di vista, quello della libertà e quello dell'immaginazione. Allora con i nostri ospiti parleremo di favole moderne, allegre e delicate, che sono certe piaceranno ai piccoli ma anche a chi piccolo non è più. You better watch out. Not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Parlare di soldi a Natale può sembrare un po' difficile, anche antipatico. Noi però un modo l'abbiamo trovato. Rivolgiamo naturalmente un pensiero ai bambini che da poche ore avranno ricevuto la visita di Babbo Natale, rendendo così questo Natale speciale, come tutti i bambini meritano. Noi pensiamo ai bambini, ma naturalmente lo facciamo alla maniera di Cuore e Denari. Per la parte di denari oggi abbiamo scelto di proporre ai nostri ascoltatori la lettura di un libro che dovrebbero tenere in casa tutti i genitori. Fiabe e Denaro, il libro per educare al risparmio e all'economia, prendendo spunto quello che offre il mondo fiabesco, quindi una raccolta delle favole più note, ma anche alcune meno conosciute, con a margine la lezione che si può trarre, l'insegnamento che scaturisce da queste storie. Il linguaggio delle fiabe è semplice, ma ha così tanta simbologia, così tante sfaccettature, che ben si presta alla spiegazione di alcuni concetti, come quelli legati all'uso del denaro, che apparentemente sono molto lontani dall'interesse dei bambini. Si è incaricata di questo lavoro, cioè della raccolta delle favole più adatte a spiegare il denaro ai bambini, la professoressa Emanuela Rinaldi del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Udine, che è in collegamento con noi e che naturalmente salutiamo, alla quale non possiamo che augurare buon Natale. Buongiorno intanto. Buongiorno Deborah, buongiorno anche ai radioascoltatori. E allora intanto le chiedo subito di raccontarci, visto che con le fiabe abbiamo capito si può parlare di denaro, com'è nata questa idea e come ha selezionato le favole, perché la letteratura intanto ce ne offre moltissime, quindi ha dovuto fare anche un bel lavoro di sintesi e scrematura. Ci racconti? Allora, l'idea è nata perché nel corso delle ricerche che ho svolto sulla socializzazione economica per i libri Giovani e Denaro e per l'educazione finanziaria, diversi genitori e insegnanti mi chiedevano uno strumento flessibile da usare in casa e in classe per trattare alcuni temi dell'educazione finanziaria. Quindi dalla rassegna della letteratura abbiamo visto che le fiabe, secondo diversi studi, hanno comunque un impatto significativo nella costruzione della cultura finanziaria dei minori. E quindi abbiamo scelto delle fiabe occidentali che ripercorressero i temi più importanti secondo l'esperto di educazione finanziaria per i bambini elementari, quali il risparmio, la pianificazione, il capitale sociale. Le abbiamo sottoposti a una commissione di esperti provenienti dal mondo bancario, dal consorzio Patticchiari, dall'Università di Udine, dall'Università Cattolica e dall'Associazione Fare Economia, e da lì in base ad alcuni criteri quali i temi, la semplicità, il linguaggio e anche l'interesse suscitato dalla fiaba, abbiamo poi selezionato le fiabe contenute nel libro. E noi alcune di queste fiabe le ascolteremo, quindi mi rivolgo ai genitori all'ascolto, se siete con i vostri bambini non cambiate canale, anzi alzate il volume perché tra poco potrete ascoltarle insieme. E visto che le fiabe, come vedremo, hanno un insegnamento che si concretizza nella vita di ogni famiglia, noi oggi abbiamo voluto anche il nostro educatore finanziario preferito, Antonio Caielli, con cui potremo raccogliere ulteriori riflessioni e consigli, insomma la morale della favola, come si suol dire in questi casi. Antonio, bentornato. Grazie, buon Natale a tutti voi. Allora, intanto io voglio subito sapere qual è la favola che ha segnato la tua infanzia. Parlava di soldi al punto che poi sei diventato educatore finanziario? Sì, di favole tante, tantissime, magari qualcuna, anzi sicuramente ne ho ritrovate tanto nel bel libro di Emanuele Rinaldi, ma secondo me è proprio l'economia che è una bella storia da raccontare, ma quell'economia intesa come... come oikos nomos, come dicevano i greci, cioè le regole della casa, cioè le materie, il denaro, le risorse in generale sono finite, il gioco sta nell'usarle bene. Questa è una bella storia da raccontare. La vera ricchezza a volte non è, come mi piace sempre ricordare, nel denaro e nella relazione, nella rete di persone e negli affetti, ma questo, diciamo, è la mia visione. Però della morale delle favole, dicevi, legate ai grandi, ma e a me fa sempre piacere ricordare quello che uno dei padri delle fiabe, che ricordiamo che era uno dei fratelli Grimm, diceva: le favole, chi l'ha detto che sono scritte per i bambini? Non è vero, non sono anche contro il pensare di scrivere qualcosa appositamente per i bambini, e se lo diceva lui vuol dire che i messaggi sono proprio diretti a tutti. Infatti non è per fare complimenti ad Emanuele Rinaldi, naturalmente, che si è imbarcata in questo lavoro, che comunque è stato anche divertente, non è per farle complimenti, dicevo, ma questo è un manuale anche che può servire agli adulti, no? Perché dalle favole con messaggi semplici anche un adulto che magari ha poca confidenza con le tematiche economiche e finanziarie, anche gli adulti possono trovare delle ricette interessanti per maneggiare un po' queste materie. Che dici, Antonio? Sì, proprio questo. C'è ancora di più. Siamo noi che possiamo imparare un sacco di cose dai nostri figli e dalla risposta alle favole. E qualche volta, io ricordo sempre questo, quando ho tentato di spiegare il risparmio a mio figlio, gli misi davanti la sua mucca, che era il salvadanaio, e mio figlio aveva 4 anni e mezzo all'epoca, mise i 50 centesimi dentro che aveva guadagnato con un lavoretto, li mise dentro la mucca. Nel metterli davanti alla mucca, la guardò e disse: se li ha mangiati. E io ho imparato una cosa importante: per un bambino non è così scontato mettere un soldo dentro un salvadanaio. Il suo salvadanaio è diventato trasparente perché lui potesse vedere il risparmio e gli effetti del risparmio che cresce. Allora, non ci resta adesso che cominciare. Accomodiamoci ai piedi del nostro albero di Natale, magari immaginiamo anche un caminetto che ci scaldi, apriamo il nostro libro di fiabe e leggiamo la prima fiaba, appunto, che abbiamo prescelto, Il corvo e la volpe. Il corvo e la volpe di Esopo. Messer Corvo aveva trovato sul davanzale di una finestra un bel pezzo di formaggio. Siccome ne era proprio ghiotto, volò sul ramo di un albero per mangiarselo in santa pace. A un tratto passò di là una volpe furbacchiona che al primo colpo d'occhio notò quel gustoso formaggio giallo. Subito pensò a come rubarglielo. «Salire sull'albero non posso», si disse la volpe, perché lui volerebbe via immediatamente con il formaggio nel becco e io non ho le ali. Qui bisogna giocare d'astuzia. «Messer Corvo, che belle penne nere hai!» esclamò allora abbastanza forte per farsi sentire. «Se la tua voce è bella come le tue penne, tu certo sei il re degli uccelli. Fammela sentire, ti prego!» Quel vanitoso del corvo, sentendosi lodare, non resistette alla tentazione di far udire il suo brutto cracra. Ma appena aprì il becco, il pezzo di formaggio cadde. La volpe fu ben lesta ad afferrarlo e a scappare canzonandolo. «Se poi, caro il mio corvo, tu avessi anche il cervello, non ti mancherebbe proprio altro per diventare re!» Professoressa Rinaldi, intanto possiamo dire che nel libro questa fiaba è pensata per i più piccoli, dai 5 ai 6 anni, proprio perché avete ragionato anche sulle fasce d'età. Che insegnamento si può trarre e di cosa si può parlare con un bambino così piccolo dopo avergli raccontato questa fiaba? Beh, qui ci sono il tema dell'astuzia, della vanità, della tentazione e anche della legalità. E le abbiamo scelti perché, secondo diversi studi di psicologia economica, condotti secondo una prospettiva cognitiva, ci sono degli stadi proprio di sviluppo del pensiero economico nei bambini occidentali che corrispondono alla conoscenza di alcuni termini e concetti, e quindi non tutte le fiabe possono essere raccontate ai bambini di 6 anni, perché alcuni concetti non fanno parte del bagaglio del pensiero economico del bambino, mentre la legalità, l'astuzia e appunto il tema della vanità possono essere tranquillamente trattati in classe e esplorati anche nella loro dimensione dell'utilizzo anche del denaro e della ricchezza. Il tema della legalità è davvero impegnativo per un bambino di 5 o 6 anni, Antonio Caglielli. Concetti come questo, ma anche come quello della lealtà, come possono essere come dire, discussi in famiglia? Ma non c'è forse fiaba che meglio di questa dovrebbe non iniziare con c'era una volta, ma c'è oggi? Perché questo è un po' proprio il tema che quotidianamente succede, non tanto con i bambini, non soltanto con i bambini, ma con i genitori in generale. Chi è la volpe? La volpe è quel personaggio che tra tutti è quello più consapevole, sia di come si sente lui, ma di come si sente l'altro. Il corvo è un soggetto che risponde e si muove ascoltando le sue emozioni. E la volpe che cos'è? Io la leggo così, provo a dare una lettura moderna, postmoderna. La volpe è il neuromarketing. Che cosa fa? Costruisce, conosce molto bene la reazione dell'altro. E neanche a farla apposta, Esopo, che naturalmente non poteva sapere 2000 anni fa che esistesse il neuromarketing, dice: se avesse un cervello. È bellissimo, è proprio il cervello il nodo di questo. La volpe conosce bene i movimenti del cervello. Cosa significa questa storia? È importante conoscere se stessi, i propri limiti e anche le logiche che muovono l'altro che ci parla, che è lì a volte per adularci. E un'altra cosa che mi ha stupito è questo: il corvo è solo, perché se si fosse confrontato con una corva o con qualcun altro, magari avrebbe capito che lì... Questa lettura ci piace molto, Antonio. E poi non soltanto, tu corvo, prenditi il tempo di scegliere. Prenditi il tempo di capire quello che sta succedendo, se quello che ti viene offerto e ti viene detto fa per te. Posso provare a dare una lettura di una finale, di un finale che avrei gradito io? Certo. Il corvo avrebbe potuto dire: ti faccio sentire subito come la mia voce, ma prima fammi finire questo pezzettino di formaggio . E se vuoi te ne do un pezzettino. Oggi insomma si sarebbe potuta riscrivere in maniera diversa, almeno nel finale. C'è però anche un aspetto positivo indicato da questa storia, che è quello della progettazione. Professoressa Rinaldi, è implicita, lei lo dice nel libro, in questa fiaba, la spiccata capacità di progettazione della volpe nel raggiungimento di un personale e molto specifico obiettivo. Quindi questa favola può anche insegnare a perseverare se si ha un obiettivo in testa. Esattamente, infatti la capacità di progettazione viene anche proposta come elemento chiave degli esercizi che abbiamo inserito in Fiabe Denaro accanto a questa fiaba, e aiutano a stimolare i bambini a ragionare nel lungo periodo, quindi provare a pensare ad una strategia che si applichi con pazienza nel lungo periodo per raggiungere il proprio obiettivo. Concordo al 100% con Antonio che in questo caso una figura di un consulente affidabile per il corvo sarebbe stato quel capitale sociale, quindi quella relazione così ricca che secondo noi sociologi è una risorsa importantissima, che avrebbe aiutato il corvo a non commettere l'errore. Nella fiaba non c'è questo elemento, però negli esercizi che abbiamo proposto c'è anche questa riflessione su un elemento così importante come una persona affidabile che ti possa dare consigli in queste situazioni. Adesso passiamo alla seconda fiaba. Gli scarti dei fratelli Grimm. C'era una volta una fanciulla di nome Luisa, che era bella, ma pigra, trascurata e di poca pazienza. Quando doveva filare era così seccata che se Lino aveva un piccolo nodo, ne strappava subito un mucchio e lo buttava a terra tutto ingarbugliato. Luisa aveva una servetta laboriosa che nel corso degli anni raccolse il lino scartato, lo pulì, lo filò sottile e con esso si fece fare un bel vestito. Venne il giorno delle nozze di Luisa. La fanciulla laboriosa danzava allegramente nel suo bel vestito e la sposa disse: «Guarda, guarda la ragazzina, coi miei scarti si è fatta un vestito, così agghindata è proprio carina, è bella a menadito». Lo sposo l'udì e le domandò che cosa volesse dire. Allora ella gli raccontò che la ragazza portava un vestito fatto con il lino che lei aveva scartato. All'udire la storia, lo sposo si accorse della pigrizia di Luisa e della laboriosità della servetta. Perciò piantò la fidanzata, andò dall'altra e la prese in moglie. Questa è la mia preferita di tutta la raccolta di Emanuela Rinaldi. Professoressa Rinaldi, qui gli spunti sono molti e questa fiaba è pensata per un'età leggermente superiore alla prima che abbiamo ascoltato. Qui si va tra i bambini tra gli 8 e i 9 anni, giusto? Sì, esatto. Come mai questa è proprio indicata per questa fascia d'età? Beh, qui ci sono alcune attività un pochino più complesse, di nuovo c'è pianificazione, c'è il risparmio, c'è anche un'attività imprenditoriale che la servetta fa. E anche a me piace molto questa fiaba perché qui non si tratta solo di valorizzare la bellezza, che sicuramente è comunque una caratteristica delle fiabe, delle principesse, delle aspiranti principesse, delle regine, ma anche della laboriosità. Quindi diciamo che abbiamo cercato di esplicitare un pochino meglio come Cenerentola conquista il suo principe, perché a volte le bambine si ricordano che Cenerentola, essendo molto bella e molto buona, riesce a conquistare l'amore del principe. Però le donne sanno che a volte bisogna anche lavorare, impegnarsi e accanto alla nobiltà d'animo, anche in questo caso ad esempio saper utilizzare gli specchi o le diverse risorse. Lo faceva anche Cenerentola, ma in questa fiaba viene ancora più esplicitato l'importanza della laboriosità della donna, e quindi è un modello per le bambine che lavorano e sono indipendenti anche dal punto di vista economico e si impegnano al loro lavoro. Mi azzardo a dire che Emanuela Rinaldi ha su questa visione come dire un approccio romantico, Antonio Caglielli invece, che è il grande appassionato del tema dello spreco alimentare, tanto che da molti mesi porta in giro in tutta Italia uno spettacolo proprio sullo spreco insieme all'avvocato Massimo Melpignano, si sarà immagino appassionato particolarmente all'aspetto degli scarti e di come vengono utilizzati. Questo è un aspetto certamente da cui si possono trarre molti insegnamenti. Molti, moltissimi, infatti ci piace anche raccontarla a scuola questa. Le fiabe cosa sono? Le fiabe sono un'immagine della società che guardiamo anche noi, e noi siamo nella società dello spreco purtroppo, e contro questo dobbiamo educare. Allora io mi sono, nel rileggere, l'ho letta 2 settimane fa ai miei bimbi, e mi sono cominciato a fare delle domande, l'ho fatte a loro, ho detto: ma questa Luisa, che è così poco educata a un uso consapevole delle risorse, ma non sarà che magari, a me fa molta tenerezza, ho detto, ma non sarà che dovremmo fare qualcosa per i genitori di Luisa, non tanto per Luisa, perché Luisa in fondo non è tanto colpevole. Una cosa bella di questa fiaba è che le risorse non sono solo il denaro, sono qualcosa di più, sono anche delle sostanze. Quello che però io farei è tirare le orecchie ai fratelli Grimm, perché io voglio sapere il nome di questa schiavetta, come dice, di questa servetta. Ma è un esempio positivo, diamo il nome di questo, perché noi dobbiamo parlare degli esempi positivi, non dobbiamo parlare soltanto dei personaggi negativi. E la morale in questo caso qual è? Il riuso di un bene è una cosa bella, è una cosa perché scatena la creatività, è bella, è positiva. Una cosa che mi fa pensare sempre, mi fa pensare alla canzone di De André: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, dalle cose piccole e magari che per qualcuno sono uno scarto, che nascono delle cose importanti. E una delle cose che mi piace di più ricordare ai bambini e ai ragazzi a scuola è che l'italiano in questo ci dà una grande mano. Pensate, non abbiamo ancora un'espressione che è fare un regalo, non comprare un regalo, che è una cosa molto bella. I regali si possono fare, c'è una manualità da riscoprire e anche un recupero, un riuso delle sostanze. Certo, mi piacerebbe magari ricordare, potrebbe essere questa forse la favola giusta per farlo, tutto il suo lavoro sul tema del diario alimentare, Caglielli, visto che parliamo di sprechi che molto spesso sono associati proprio alla come dire mondo cibo e al mondo alimentare, possiamo rifare oggi il giorno di Natale, chissà che tavole imbandite avremo, ma magari ricordare un po' quanto sia importante anche progettare quello che si mette a tavola, è importante in una giornata come questa. Molto, moltissimo. Dobbiamo adesso fare un po' di mea culpa per quello che è successo ieri sera in tante famiglie. Tra un po' ci sediamo a tavola e quindi il danno è fatto, perché non ce la faremo più a tornare indietro. Sì, è importante capire che cosa facciamo, cosa mangiamo, cosa mettiamo dentro di noi, che impatto ha avuto il cibo nel mondo prima di arrivare sul nostro piatto e per finire nella spazzatura. Ecco, un buon proposito può essere quello. Il pranzo di Natale dobbiamo usarlo tutto, e se non ce la facciamo noi possiamo farne un regalo a qualcuno. Benissimo, un'ultima lezione che possiamo trarre, professoressa Rinaldi, dalla favola Gli scarti, nella storia della fanciulla Luisa e della sua servetta, c'è il tema molto bello della ricompensa, della remunerazione del lavoro. La servetta ha visto ripagata, anche se non con del denaro, la fatica fatta per cucire l'abito, no? Qui ci muoviamo sicuramente in un territorio un po' delicato. Fare le cose, metto qua il punto interrogativo finale, per un tornaconto, sono discorsi da affrontare con un bambino, come si fa nel modo giusto? Allora, il tornaconto inteso in senso strettamente economico può essere in effetti un po' pericoloso, nel senso che poi si abitua il bambino a ragionare con una mentalità molto molto aderente al modello capitalista, diciamo. Invece la fiaba ripropone un riconoscimento che è in termini di gratificazione, di sentimenti, in questo caso di un sentimento di affetto e quindi una relazione col principe. Quindi secondo me è importante parlare di ricompensa in termini di gratificazione, di soddisfazione, di felicità che tu puoi dare ai tuoi genitori, a chi aiuti o alle persone con cui collabori, e quella quindi è la moneta, diciamo, che ottieni se ti impegni, se risparmi o se fai in questo caso un lavoro di recupero degli scarti e quindi dello spreco. Una piccola chiosa finale da Antonio Caglielli prima di andare in pausa. No, che ha detto cose molto importanti: il filo e il risparmio. Il filo, tra l'altro, tradizionalmente in letteratura è importante, il filo è quello che ha salvato Teseo dal labirinto del Minotauro, ma è importante perché è un bellissimo simbolo di come le cose crescano. Il filo produce una stoffa, la stoffa produce un vestito, e una cosa bella di questa crescita è che è anche una crescita di come dire di questo personaggio, di questa bambina, appunto la servetta, che ricorda anche come il denaro, il risparmio possano essere un modo per una crescita sociale, no? Però ricordiamoci, la crescita sociale, la mobilità sociale è il tema dell'anno prossimo del Festival dell'Economia di Trento. È vero, è stato proprio presentato pochi giorni fa. E quindi è proprio questo, cioè il risparmio può permettere la crescita, la mobilità sociale. Questo va insegnato a un bambino, che il destino è anche un po' nelle, certo, loro mani. Nel frattempo ci dobbiamo prendere adesso qualche minuto di pausa, ma ritorniamo con il Natale e le favole per i bambini per insegnare il denaro subito dopo. Cuore e denari. Riprendiamo con la nostra puntata speciale di Natale, una pagina di denari oggi dedicata ai più piccoli. Stiamo ascoltando delle fiabe classiche, alcune molto conosciute, altre un po' meno note. Stiamo scoprendo che anche queste fiabe possono insegnarci qualcosa sull'economia, sul risparmio, sul bilancio della famiglia. Nella parte precedente abbiamo toccato la grande questione degli sprechi, non solo dal punto di vista alimentare, ma in ogni aspetto della nostra vita. Insomma, c'è da imparare per i più piccoli, ma le fiabe servono anche ai più grandi. Insieme a noi l'autrice di questo libro raccolta di fiabe con delle lezioni e delle morali sul tema del denaro, appunto Fiabe e Denaro, il libro per educare al risparmio e all'economia, la professoressa Emanuela Rinaldi, e poi con noi Antonio Caglielli, educatore finanziario, un amico ormai di Cuore e Denari da tempo. Tra l'altro so, Antonio, che voi fate anche delle cose insieme con la professoressa Rinaldi, andate un po' in giro per università e scuole a testare un po' il sentimento che c'è fra i ragazzi su questi argomenti. Sì, c'è stato proprio di recente, 15 giorni fa, e siamo stati molto lieti di essere ospiti dell'università di Udine, proprio del corso della professoressa Rinaldi, che devo dire semina un terreno molto, molto bello. La risposta dei ragazzi è stata estremamente partecipata, viva, quindi vuol dire che, come dire, è uno di quei casi in cui l'insegnamento universitario attecchisce, perché è proprio vita viva, cioè, mm-hmm, proprio la realtà. E col suo aiuto abbiamo ragionato proprio sul ruolo che può avere l'educazione finanziaria e anche su che cosa poter fare, poter dare delle proposte attive ai ragazzi. Infatti è stato un bel momento per noi. Probabilmente a loro non avrete letto delle favole, ma noi ce ne ripeschiamo un'altra tratta da questa raccolta. Il re che voleva diventare ricco. Fiaba popolare. C'era una volta un re che aveva un forziere pieno di monete d'oro, ma voleva diventare ancora più ricco. Così un giorno emise un bando. Avrebbe affidato una somma di 100 scudi a 3 cavalieri tra i migliori del regno, con la missione di trasformarli in un gruzzolo più consistente. Chi fosse riuscito meglio nell'impresa avrebbe sposato sua figlia, la principessa. Si presentarono i 3 cavalieri. Erano 3 prodi fratelli. La gara iniziò. Il primo cavaliere, di nome Luigi, che era il maggiore dei 3 fratelli, viaggiò in terre sconosciute. Con i denari assegnatigli dal re, acquistò mercanzie mai viste prima nel suo regno. Così, al ritorno, diede ai suoi scudieri il compito di vendere tutte le merci importate da quelle terre. Alla fine i 100 scudi erano diventati 500. Il secondo, che si chiamava Antonio, fece una cosa diversa. Siccome era invidioso del fratello e non poteva imitarlo, chiamò a sé alcuni soldati mercenari. A loro diede il compito di passare di villaggio in villaggio affinché con la spada e con il fuoco minacciassero i popolani, facendosi consegnare tutti i beni che possedevano. E così, con il terrore, riuscì a racimolare tanto quanto il fratello. E il terzo? Martino, così si chiamava, era il più giovane e il più buono. Odiava la violenza e amava il suo paese. Aveva pena per i poveri e ammirazione per gli acuti di mente. Insomma, con quei 100 scudi voleva sì vincere la gara e sposare la principessa, ma nel contempo voleva fare del bene. Così andò a consultare un saggio che abitava in cima a una montagna e gli chiese: «Come posso vincere la gara e allo stesso tempo far felice la gente del mio paese?» Il saggio rispose: «Dai una parte dei 100 scudi a chi si ingegnerà per far crescere le spighe di grano più in fretta e l'altra a chi saprà nutrire meglio le bestie. Ma ha un patto, che alla fine del ciclo delle 4 stagioni, una parte dei danari guadagnati dal lavoro di chi ha beneficiato dei tuoi soldi ti venga ridato». Così fece Martino. E cosa accadde? Che chi aveva idee per far crescere più in fretta le spighe guadagnò tanto che volentieri diede la sua parte, così come chi, ingrassando i propri animali, ne aveva tratto molta più carne. Così accadde che Martino non solo ottenne il miglior risultato, perché alla fine consegnò al re 1000 scudi, ma diede anche una grande gioia al regno. Il re premiò Martino che poté sposare la principessa, perché aveva reso più ricco sia il re che il regno. E quel che ancora più conta era che aveva dato il sorriso e la speranza ai sudditi, cosa che per un re è davvero importante. E allora, 2 domande per la professoressa Rinaldi. La prima: che età hanno i bambini a cui è destinata questa favola? La seconda domanda: come mai è la sua preferita? Allora, è la mia preferita perché parla di capitale sociale, quindi è l'importanza di gratificare le persone con cui entriamo in relazione, e quindi in questo caso si tratta di dei cittadini con cui, che Martino coinvolge anche attraverso un processo di indebitamento, perché nella fiaba si racconta che poi i contadini devono restituire quanto è stato prestato loro, e quindi si vede come l'utilizzo dei denari può essere un modo per valorizzare i talenti delle diverse persone e quindi rendere felici sia le persone coinvolte nel prestito, sia anche il re, che poi in questo caso è colui che presta il denaro. La fascia di età è quella dei 9-10 anni, perché abbiamo detto che ci sono diversi temi, tra cui anche le tasse, l'investimento, l'indebitamento, la pianificazione, e quindi si richiede una competenza in termini sia di linguaggio che cognitiva, nonché matematica, per gli esercizi da svolgere nel, che abbiamo proposto nel libro, che sono un pochino più articolate rispetto a quelle delle fiabe proposte ai bambini di 6 o 7 anni. Mm. Antonio Caglieli, certo che il concetto del debito è proprio vecchio come Noemi, verrebbe da dire, perché in ogni epoca, in ogni stagione è stato declinato a seconda appunto delle questioni anche storiche, insomma, che si possono affrontare. Non parliamo nemmeno di come gli adulti parlano delle tasse in casa, e in certi casi naturalmente come biasimarli. Magari spezzettiamo un po' in due il nostro ragionamento. Il tema del debito le piace come viene affrontato da questa favola? Sì, anche per me è una delle preferite, come per Emanuela Rinaldi, sì. Mi piace una cosa, dunque ci sono delle componenti che insomma non entrano nella fiaba, però è molto bello. Quello che mi piace del debito è questo, che è il re ha un obiettivo, e il suo obiettivo è diventare finanziariamente più ricco. Come pensa però di poterlo fare? Attraverso l'impiego di un capitale. Ecco, forse quello che non si chiede il re è se lo sta perdendo, lo sta investendo, questo non abbiamo capito, se è il capitale che è destinato anche a perdere, cioè che è convinto che possa anche perdere, questo non ce lo dice, ma ci dice un'altra cosa: per farlo ha bisogno di passare attraverso qualcuno, deve chiedere l'aiuto a qualcuno, e questo qualcuno cosa fa? Va a chiedere a un saggio. Pensate che rete che comincia a costruirsi, no? Intorno a questo. Che cosa dice il saggio? Dice: devi impiegarlo come? Nel lavoro, nella terra, nell'esperienza e nella qualità del lavoro delle persone con cui affronti questo viaggio. Ed è bello perché si scopre anche un'altra cosa, secondo me, che in questa favola, che l'obiettivo non è la meta, è il viaggio, perché Martino, mentre viaggia, si gode il lavoro degli altri, i risultati degli altri, e questo significa anche che l'investimento non è soltanto l'obiettivo di prendere dei soldi, ma anche vedere quanto è bello questo viaggio. In più, l'interesse più alto è l'interesse che riguarda un po' tutti i soggetti che sono stati chiamati. A me piace tantissimo questo. E il debito, quindi, è un debito particolare, un debito, diciamo, sano, mi viene da dire così. Non si parla sicuramente di derivati qua, no? Direi di no. No, parliamo della terra, del lavoro e dell'esperienza. E queste sono attività che meritano un indebitamento. Sul tema del saggio probabilmente da toccare un aspetto che abbiamo toccato anche nell'altra parte, il tema della figura alla quale rivolgerti quando su certi temi brancoli un po' nel buio e devi trovare quella figura di riferimento e di fiducia che ti aiuti a muoverti con consapevolezza. Anche questo è un concetto di un'attualità incredibile. È molto bello, profondo, perché il saggio sta sulla montagna, non è dietro l'angolo nella prima bottega che trovi, sta sulla montagna, quindi devi andare a cercarlo, devi fare uno sforzo anche di selezione. Vai a cercare un saggio, e mi viene in mente anche un'altra cosa: il saggio non lo paghi. È una cosa anche questa che ho notato, molto bella: non paghi il consiglio. E questa l'ho trovata così, quasi un richiamo all'indipendenza. Quindi non abbiamo conflitto di interesse. Questo saggio sulla montagna per questi tre principi non si muove in un conflitto di interessi. Diciamo così. No? Benissimo. Andiamo alle tasse invece, professoressa Rinaldi, perché storicamente non sono mai raccontate e disegnate in maniera positiva. No? Già a partire dai cartoni animati, pensiamo a Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri, non è facile farle passare come un valore. In realtà dovrebbero averlo, no? Perché noi tutti quanti siamo chiamati a contribuire nella comunità in cui stiamo, affinché poi tutti vivano meglio e affinché lo Stato a cui queste tasse le versiamo ci dia in cambio dei servizi. Trasmettere un messaggio di questa portata è veramente complesso. Come ci riesce una favola? È un concetto spinoso. Nelle fiabe noi cerchiamo di far capire che le tasse sono un contributo utile alla collettività, di cui tutti, quindi anche il singolo bambino o bambina, possono beneficiare. È anche vero che le ricerche che ho condotto con l'Università Cattolica e l'Università di Udine mostrano come i bambini poi nella loro esperienza quotidiana sentono che i politici rubano le tasse, i politici sprecano i contributi pubblici, e allora in quel momento il bambino perde un po' fiducia nell'utilizzo delle tasse. Quindi noi nelle fiabe cerchiamo di dare la morale corretta, spetta poi alla politica dimostrare che l'utilizzo viene fatto in modo corretto. E a microfoni spenti ragionavamo con Antonio Caglielli di come in realtà in famiglia oggi la percezione delle tasse si trasmette ai figli, perché certo che se si accende la televisione, si guarda un telegiornale e continuiamo a parlare di questa pressione fiscale caricata su tutti noi, è certo che un genitore non può avere un atteggiamento molto positivo rispetto a questa pioggia di notizie, e il bambino che cosa vuoi che assorba, Antonio? Un esempio negativo, diciamo così. Certo, un genitore, io mi rendo conto che c'è molta rabbia, molta tensione su questo tema, ma dobbiamo ricordarci che non si tratta solo che davanti a una fiaba un bambino impara una lezione, ma l'impara con l'esempio tutti i giorni, con quello che sente. Mi rendo conto, ci sono delle fiabe, tipo Robin Hood, no? Che è proprio il richiamo alle tasse. Giovanni cosa fa? Fa sempre ridere, la leggevo anche questa l'altra sera. Giovanni dice: era innamorato del denaro, voleva sempre così tanto denaro che chiedeva tasse, tasse e ancora tasse, che, visto che siamo stati a dicembre, IMU, TASI, TARI, tre tasse ci sono, tutte così. E il nostro atteggiamento è d'esempio, e se cominciamo davvero a parlarne male oppure a parlare di altre formule per aggirarle, non possiamo sapere che, cioè non possiamo che costruire domani dei personaggi che saranno simili a noi. Professoressa Rinaldi, in questo libro, in questa raccolta, quante favole ci sono? Ci sono 9 fiabe, e alcune delle quali sono state riscritte da Cristiano Calegari in una forma diversa che aiutasse i bambini a ragionare su alcuni concetti diversi rispetto a quelli proposti nelle fiabe originali. Noi ne abbiamo lette 3 nella nostra puntata, magari velocemente ne ricordiamo qualcun'altra oltre al classico I tre porcellini. Che cos'altro troviamo? I consigli di Re Salomone relativi anche al tema appunto dei consigli dei saggi, il salto nel mio sacco col tema anche del gioco d'azzardo, il lupo che non era mai sazio relativo quindi all'ingordigia, e il classico La cicala e la formica di Jean de La Fontaine, rinarrato anche in una versione moderna che valorizza l'importanza dell'amicizia. Dove l'ha portato, professoressa Rinaldi, fino a questo momento questo libro e che accoglienza ha avuto? L'accoglienza è stata positiva, ringrazio anche voi dei complimenti che mi avete fatto, ed è stato portato sia nelle scuole primarie ma anche all'università e anche in associazione di genitori e di donne che mi hanno chiamato per discutere assieme a genitori, insegnanti e educatori dei temi legati all'educazione finanziaria riportati nel libro. Antonio Caglieli, siamo in chiusura della nostra puntata speciale di Natale, magari con la speranza di aver tenuto incollati alla radio i genitori che stanno passando questa giornata di festa in famiglia. Diamo un piccolo messaggio a loro, prendendo il libro naturalmente si possono fare tanti bei ragionamenti con i propri figli. Da domani, per parlare di denaro in maniera consapevole in famiglia, che cosa si può cominciare a fare? Ma in generale le parole i genitori credo che le sappiano trovare, le sentano molto. Noi dovremmo pensare questo, noi stiamo dando loro oggi la legna da mettere nel camino, visto che oggi è Natale, e un giorno arriverà la scintilla, e questo è quello che dobbiamo cercare di fare. Mi permetto ancora un'ultima idea, che è questa: non vogliamo trasformare questi bambini in quello che è stato per tanti anni un riferimento, l'homo economicus, un ometto economicus, non ci piace. Cioè, teniamo anche presente che si può sbagliare, si possono prendere delle strade, e per tutta la vita, fin quando siamo anziani, si può cambiare e si può tornare sulla via di un'educazione a un uso consapevole e rispettoso del denaro. Antonio Caglieli, buon Natale. Grazie anche a voi. Manuela Rinaldi, anche a lei buon Natale e buone feste. Grazie anche a voi. Buon lavoro. Adesso una piccola pausa, poi passo la palla alla nostra Nicoletta per la pagina di cuore. Noi ci ritroviamo in conclusione di puntata e intanto ancora buon Natale a tutti. Cuore e denari. Impossibile, sentenziò Babbo Natale quella sera parlando al consiglio delle sue renne. Vero è che tutte le decisioni le aveva sempre prese il babbo, poi però le aveva condivise con le renne. In fin dei conti erano loro che tiravano il carro dei regali e guai se non fossero state d'accordo su qualcosa, anche se in realtà non era mai accaduto. Così aveva fatto anche quella sera Babbo Natale. Aveva riflettuto per bene sulla questione ed era giunto a quella conclusione. Impossibile aiutare Gelso e i suoi due amici, non c'era alcuna possibilità. Fu la renna più giovane e aitante quella volta a tentare una replica. «Shh!» gli fece segno il babbo. Non urlasse, non si facesse sentire. Lui era uscito dalla sua camera senza fare il minimo rumore. Non voleva che qualcuna delle suore o qualcuno degli altri ospiti si accorgesse dei suoi movimenti, e men che meno quell'impicciona pettegola della Befana. Quella era una faccenda che doveva rimanere tra lui e le renne. «Di impossibile non c'è niente!» disse strozzandosi le parole in gola la renna giovane. «Beata gioventù!» pensò il babbo. Spavalda, sprezzante, senza timori o paure, ma spesso scriteriata. Impossibile non c'è niente è il titolo della favola che Andrea Vitali ci ha regalato per questo Natale. Dato che è impossibile non c'è niente, Andrea Vitali è in linea con noi il giorno di Natale. Ciao Andrea. Ciao Nico, ciao a tutti, auguri. Andrea, questo giorno speciale, una favola che dedicata ai bambini, ma anche a chi bambino non è più, insomma un po' a tutti, scritta da uno scrittore che forse è restato sempre un bambino, o no? Direi sì, scritta da uno che ha la sua bella età e non la rivelo, e che però, diciamo, dietro questa maschera nasconde pur sempre, diciamo, un bambino che soprattutto viene fuori in occasioni speciali come il Natale e feste, diciamo, di questo tipo, cioè quei momenti dell'anno in cui la fantasia si libera dai pesi del quotidiano e si può permettere di volare in maniera completamente libera. In linea con noi abbiamo il piacere di avere anche Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno ad Andrea, buon Natale. Grazie, buongiorno Alberto. Alberto, la favola di Andrea ti è piaciuta in modo particolare, anche perché tu scrivi favole. Sì, beh, certamente non belle come le sue o non popolari come le sue, però è veramente una bella favola, perché porta il lettore continuamente in un gioco di conflitti e contrasti, vecchio e nuovo, moderno e antico, naturale e artificiale, tutti filtrati attraverso il desiderio di un bambino che in realtà vuole fare nel suo piccolo una grande rivoluzione e deve scontrarsi con un mondo di paludati, un po' antichi, un po' svogliati, un po' messi lì, che dicono vabbè, ma ormai ce la siamo già giocata tutti, inutile cambiare. Quindi direi anche un messaggio pieno di speranza per questi tempi di crisi, dove davvero c'è bisogno dell'entusiasmo e della creatività bambina per cambiare le cose. Il bambino si chiama Gelso. Sì. Ti assomiglia il Gelso della tua favola? E sei tu. Sono io, anche perché quella favola parte da un fatto abbastanza vero, perché quel bosco di cui Gelso parla e vuole tentare il salvamento è un bosco che esiste davvero, il bosco che c'è davanti alla mia casa, un bosco che ha rischiato di scomparire, che invece è tuttora in piena attività, diciamo in esistenza di vita, e si è salvato grazie a Babbo Natale, che mi ha fatto proprio il regalo di impedire che i suoi alberi venissero abbattuti. Vero, guarda, Babbo Natale è un mito. Senti Alberto, noi stiamo leggendo questa favola di Andrea, ne abbiamo sentite anche Deborah, ha letto delle favole. Leggere le favole ai bambini è importante, non solo a Natale, ma forse a Natale ha un significato ancora più profondo e più bello. Ma in generale, per la crescita di un figlio e il suo sviluppo emotivo, leggere un libro insieme a un figlio è il regalo più grande che gli possiamo fare. Se lo facciamo poi a Natale, facciamo due regali in uno, non dimentichiamoci, questo noi psicoterapeuti lo sappiamo bene, che le memorie incise più profondamente nella nostra mente sono proprio legate a dei momenti molto molto speciali, quindi nessuno di noi dimentica nel bene e nel male le giornate di Natale e le giornate delle vacanze estive con i propri genitori, quindi proprio mettere dentro questi giorni speciali, elementi speciali, le renderà indimenticabili e molto preziose. Andrea, le favole della tua infanzia sono in parte tutte presenti nelle pagine della tua storia, dove rievochi personaggi come i sette nani, il topolino dei denti, la cicogna che porta i bambini, Babbo Natale, beh, il nostro mito. Chi era il tuo preferito da bambino? Quante sono state i personaggi a cui tu sei stato particolarmente così vicino? Dirò una cosa scontata, però sicuramente Babbo Natale, anche perché il Babbo Natale era, diciamo, il personaggio della fantasia, il personaggio della mitologia natalizia più facilmente imitato e imitabile, quello che sicuramente attendevamo di più, perché giungeva la sera della vigilia, quindi non ci faceva aspettare troppo, e in gara con lui per quanto riguarda la mia crescita, diciamo, di fantasia, i tre re magi, perché i tre re magi nel mio paese hanno sempre avuto un'importanza notevolissima, però bisogna aspettarli troppo, quindi il babbo li precedeva e nella classifica dei preferiti è sempre stato il primo. Senti, però anche per la Befana mi sembra che tu abbia, no, nutra un certo affetto. Sì, è un affetto, diciamo, un po' peloso. La Befana mi sta bene quando non se la prende con Babbo Natale. Allora, nel momento in cui io devo decidere, insomma, se stare dalla parte del babbo o della Befana, quando i due litigano io mi schiero, certo, dalla parte del babbo. Dalla parte del babbo. Se non altro, tutte le Befane del mondo, ma se non altro per solidarietà maschile. Alberto ci ricordava quanto sia importante leggere le favole ai bambini anche nell'età prescolare. Le favole sono sicuramente state importanti anche per te come bambino che è cresciuto, ma mi verrebbe da chiederti anche se le favole hanno avuto anche un ruolo nella tua formazione letteraria. Ti hanno aiutato? Si impara a diventare scrittore? Sì. Intendendo, diciamo, per favole, poi quei racconti che hanno molto attinto, diciamo, alla fantasia, ai mondi paralleli, ai mondi non esistenti, segnatamente tra i tanti testi che mi hanno segnato, ad esempio Il Signore degli Anelli è forse il principale, perché pur non essendo una favola in senso stretto, lo è di fatto nel suo racconto, nei personaggi che intervengono, carichi di magia, carichi di cose che sanno fare assolutamente non reperibili nel mondo. e continuano a essere delle letture e quindi degli insegnamenti estremamente importanti per aiutarmi a scrivere poi le altre cose, anche se non sono strettamente favole. Senti Andrea, il tuo libro mi sembra che sia anche un messaggio che va anche nella direzione di limitare un po' il pieno di tecnologia che ognuno di noi ha nella propria vita, o sbaglio? Assolutamente, anche perché pur non essendo un libro che io ho scritto esclusivamente ai bambini e ai ragazzi, cioè l'ho scritto perché mi andava l'idea di raccontare questa cosa, il messaggio invece è molto più, il messaggio se c'è e se viene recepito è molto più riferibile alle nuove generazioni che sono troppo disturbate da questa nuova tecnologia e quindi corrono il rischio di negare una libertà fondamentale indispensabile alla loro fantasia. Tu pensi che sia quindi che i ragazzi di oggi rischino di essere meno liberi, di essere meno creativi, anche meno fantasiosi, proprio perché ancorati troppo alla tecnologia? Assolutamente no, io questa cosa la dico con cognizione di causa perché è un periodo in cui ho fatto molti incontri con ragazzi molto giovani, studenti elementari o dei primi anni delle scuole medie e ho visto che nonostante tutto mantengono una capacità di percorrere i propri territori della fantasia, per cui sono già armati, sono già capaci di difendersi da questa tecnologia proprio perché forse ci sono nati talmente in mezzo che la ritengono, hanno gli anticorpi, come si dice, gli anticorpi, vero? A coloro che sono un periodo più grandicelli che invece l'hanno vissuta come veramente un dono del cielo e quindi la guardano con un timore quasi reverenziale, come fosse una divinità. Ecco, quelli siamo un po', no? Quelle dell'età di mezzo. Siamo ancora nell'età di mezzo noi? Io direi di sì, che dici? Va bene, ok, andata. Sì. Allora dai, siamo a Natale, no? Se no, dobbiamo essere buonissimi. Senti Alberto, penso a tutti i bambini che hanno ricevuto regali tecnologici in questo Natale, c'è qualche consiglio da dare ai genitori all'ascolto? Ma certamente cercheranno di fare una buffata e di non fare spesso nient'altro se non giocare con i loro nuovi gadget tecnologici. Forse un genitore può veramente mettere un po' di paletti, cioè può definire quanto tempo massimo può essere dedicato alla tecnologia e per il resto fuori all'aria aperta. È bellissimo andare a visitare una nuova città oppure semplicemente a fare una passeggiata nel bosco vicino al lago anche durante il periodo invernale. E se questo consiglio vi sembra un po' difficile da mettere in pratica, ricordatevi che impossibile non c'è niente, la nuova favola di Andrea Vitali che vi invito a leggere. Grazie ad Andrea Vitali. Grazie a voi e tanti auguri ancora. Buon Natale, salutami Babbo Natale. Senz'altro, non mai. Cuore e denari. Lo dice anche il proverbio: Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. E allora io il Natale qui a Radio 24 lo trascorro con i miei, perché ho voluto vicino a me due dei miei migliori amici. Così ci facciamo gli auguri, facciamo festa insieme e soprattutto ci e vi facciamo compagnia con tante sorprese e tanta voglia di bene. Saluto il mio super amico Giacomo del magico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che è qui proprio davanti a me. Ciao Giacomo. Ciao, buon Natale Nico. Buon Natale a te Giacomo. Tu lo sai che ti voglio bene per tanti motivi e uno di questi è che tu sei da me stato ufficialmente proclamato il più bello e affascinante del trio. Ma lì non c'era difficoltà, insomma. Hai ragione, ho giocato facile. In linea in questo giorno di festa un altro grande amico mio e di questa trasmissione, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, auguri a tutti e auguri anche a Giacomo naturalmente. Auguri. Con voi oggi voglio fare festa, ma voglio anche aiutare i nostri ascoltatori ad alzare lo sguardo, come si dice, ad andare oltre il momento di crisi e di fatica che più o meno tutti stiamo vivendo. E questo Giacomo è anche il messaggio del vostro film di Natale che in questi giorni molti di noi andranno a vedere. Beh sì, il messaggio è proprio quello dell'ottimismo, ma l'ottimismo a volte è scambiato come qualcosa di zuccheroso e di banale. In realtà essere ottimisti significa avere fiducia oltre che per se stessi, ma soprattutto verso gli altri, affidarsi agli altri. Un po' vi sembrerà strano parlare di un messaggio del film di Aldo, Giovanni e Giacomo, però è così, siamo partiti non tanto dalla crisi ma quanto dall'avidità di una persona, il ricco che io interpreto, è talmente avido che non riesce mai a fermarsi, ha accumulato tanto, non riesce a fermarsi e rischiando, come lo ha fatto tante volte nella vita, questa volta gli va male, trascina con sé alla rovina la propria famiglia, il proprio maggiordomo che gli è stato fedele per 30 anni, ma casualmente che cosa gli succede? Un colpo di fortuna, e incoccia, o anzi mette sotto con la sua macchina super lussuosa, questo povero nulla tenente, nulla facente, anche un po' approfittatore di Aldo, no? Lo mette sotto, però da lì parte tutta una vicenda, e la generosità del povero, la semplicità consente al ricco e al maggiordomo di andare a vivere insieme. Quindi provate ad immaginarvi a vivere in 45 metri quadrati un ricco che se la tirava come non si sa cosa, il suo maggiordomo, il povero, è la mamma isterica che oltre ad avere il figlio in casa che non ha mai lavorato si trova altre due cialtrone che comandano. Però da lì accade il miracolo. Allora vi faccio ascoltare un estratto del film di Aldo Giovanni e Giacomo, Ricco, il povero e il maggiordomo. Allora Junio, c'è solo un obiettivo importante nella vita: mandare la palla in buca. Ho bisogno di un tetto caldo solo per un po'. Mamma, ma che razza di figlio sei tu? Sento che la crisi è passata. Oh, Juanito, quando mi impalmi? Ma anche ora. Colpo di Stato, default finanziario. Ho perso tutto. Cioè non è rimasto proprio niente. Assolutamente. È finita. Casa, società, auto. Hai dissolto tutto in un colpo solo. Tra Nigion, Antidilan, Conar, Antrudic. Di chi puttana? Cornuto! Bastardi! Sfruttatori! Sfruttatori che vivono in una sciatica con le morroie! Che abbia vinto no. Film di Aldo Giovanni e Giacomo è una vera e propria pillola di cineterapia per queste feste di Natale. Ne sei convinto anche tu? Ne abbiamo parlato a lungo. Sì, io credo proprio che questo sia un film che ha due valori terapeutici. Intanto fa veramente ridere, lo fa con intelligenza, lo fa con misura, lo fa con gusto, e effettivamente ridere e sorridere migliora la nostra vita e, come dicono le ricerche, tra l'altro migliora anche le competenze del nostro sistema immunitario. Credo però che il secondo aspetto... Quindi è anti-influenzale, diciamo così. Esatto, è un potente anti-influenzale. Credo però il secondo aspetto sia che effettivamente nel divertimento di una narrazione su una storia apparentemente improbabile, questo film presenti nei personaggi tratti con i quali tutti noi possiamo identificarci, aspetti proprio del nostro stare al mondo, soprattutto in questo momento di grande difficoltà, che sono molto vicini alle fatiche, agli ostacoli, a volte anche alle sfide, alle speranze che tutti noi in questo momento stiamo vivendo. È vero, Giacomo, in effetti questo film è proprio sul pezzo, parla di crisi, di fatica, ma anche, e mi piace molto, di cooperazione, di solidarietà. Insomma, in forma narrativa presenta molte delle sfide che ciascuno di noi sta vivendo in questa faticosissima congiuntura economica. Sì, forse la risposta sta anche in un aspetto poco sviluppato di questo film, quantomeno nella parte pubblicitaria. Aldo, oltre a non fare nulla, essere una specie di disoccupato, si occupa di una squadretta di calcio per bambini, è una squadra che non vince mai, che non segna mai. Però in uno dei passaggi chiave del film, Aldo, rivolgendosi a loro, in generale verso tutti i perdenti, dice che se uno ha dato tutto nella vita, quindi anche nella partita di calcio, dare tutto non è poi così lontano dal vincere, no? Quindi è quello che diciamo noi spesso, è la filosofia in cui crediamo per davvero, riferito ai bambini: non è tanto importante il risultato che ottengono, ma guardarli per quello che sono, accettarli per quello che sono, volergli bene. E infatti alla fine, qui svelo il finale, ma Nico, quando il ragazzino fa l'unico gol della partita, noi lo festeggiamo come se avessimo vinto la Coppa del Mondo. Nella prima settimana di proiezione al cinema il vostro film ha fatto subito il botto, primo assoluto al botteghino con la gente in coda per potervi assistere. Ma Giacomo, qual è il segreto del vostro successo? La divertente semplicità così umana delle storie che raccontate, oppure l'alchimia perfetta che si crea tra voi quando state sullo schermo, e penso anche nella vita, e riuscite quindi a bucare proprio lo schermo nel senso più letterale del termine, o forse tutte e due le cose, o ancora qualche cosa di diverso in più? Ma queste cose che hai detto tu sicuramente, però ricordiamoci, noi lo sappiamo bene che il segreto del successo è un mistero, perché a noi uomini ci è dato di vivere dentro a certi misteri. Se sapessimo come fare per ottenere successo, sarebbe fin troppo facile, no? Però io aggiungo una cosa. Conosco bene i miei soci, parlo soprattutto per loro, credo che l'onestà del cuore, l'onestà con cui affrontiamo le storie sia il segreto, e la semplicità vera come persone. Io credo che gli spettatori riescano ad identificarsi con noi, a rispecchiarsi e a ritrovare delle storie che spesso capitano anche a loro. Alberto, perché secondo te la gente ama così tanto questo magico trio? Ma io credo proprio che loro sono un'alchimia di tutte le cose che noi troviamo dentro noi stessi e dentro gli altri, cioè loro sono una perfetta combinazione di tre differenze che alla fine diventano un'unica cosa. Non per niente tu quando dici Aldo, Giovanni e Giacomo parli di tre, ma è come se fossero uno. Uno, sì. Beh, ve l'ho già detto cosa ci capita spesso, no? Quando andiamo in giro, quello è Aldo, Giovanni e Giacomo, sono solo Giacomo di Aldo Giacomo, oppure guarda la moglie di Aldo, Giovanni e Giacomo, è tutta una parola. Senti Giacomo, tutta una parola. Oggi noi siamo a Natale, una festa piena di significato. Tu sei un uomo di fede, lo hai dichiarato in più occasioni, e lasciamelo dire, in questo mondo pieno di cinismo e anche di distruzione della speranza, tu hai spesso messo la faccia per iniziative di solidarietà, ma anche solo per sensibilizzare le persone ad andare oltre le apparenze, oltre la superficialità di ciò che appare. Insomma, tu, Giacomo, sei per me un amico caro, e per tutte le persone che ti conoscono e ti seguono, anche solo quelle che vengono a vederti al cinema o a teatro. Ma tu sei un uomo di grande spiritualità. Che cosa ha dato la fede alla tua vita di uomo? Beh, l'ha cambiata in maniera molto decisiva, o forse in maniera decisiva. Difficile in poco tempo dire di queste cose che sono anche intime, però se posso permettermi di semplificare usando qualche cosa che assomiglia a uno slogan, la fede riempie di senso l'esistenza. Si sa per quale motivo, si intuisce bene per quale motivo ha senso faticare, vivere, e che a volte questo senso viene smarrito dal non senso, viene smarrito dalle fatiche, dalle prove a cui siamo sottoposti. Però è un po' quella bussola che tante volte perdiamo e poi improvvisamente la ritroviamo e ci rimette in cammino. Secondo te, Alberto, la spiritualità del Natale, al di là del credo religioso di ciascuno di noi, può diventare occasione di trasformazione, di cambiamento? Ma partirei proprio dal fatto che ce l'ha raccontato benissimo Dickens nel suo Canto di Natale, che forse è la favola di Natale più bella che tutti noi abbiamo letto. C'è oggettivamente in alcuni giorni dell'anno, che sono poi i giorni indimenticabili della nostra vita, una situazione particolare per cui la nostra intelligenza emotiva, proprio anche la nostra propensione ad alzare lo sguardo, a guardare al di là del quotidiano e delle convenzioni, ci permette di cogliere occasioni di cambiamento e di trasformazione. Io penso che se noi riguardiamo un po' con la moviola la nostra vita, ci sono proprio dei Natali indimenticabili, quelli dove abbiamo compreso il significato profondo del nostro stare al mondo, delle nostre relazioni, e poi proprio anche il nostro essere stati bambini in alcuni Natali probabilmente rimane con noi anche in questo momento e ci dà il senso del percorso della nostra esistenza, per cui direi proprio di approfittare di un'occasione come il Natale. I bambini, è molto interessante, perché anche i bambini che non credono in una religione, che vivono in famigliate, se entrano in questi giorni in una chiesa, vedono il presepe, si guardano intorno, sentono proprio di avvertire qualcosa che è fuori di loro, ma al tempo stesso è anche dentro di loro, e si fanno un sacco di domande. Giacomo, com'è il tuo Natale? Di quale ingrediente è fatto? C'è un piccolissimo pezzo questo Natale di Nico, di Nico e di Deborah, insomma, di Cuore Denari, ma quali sono gli ingredienti che hanno caratterizzato sempre il tuo Natale, oppure se ce ne sono di nuovi negli ultimi Natale? Ma no, ma gli ingredienti sono sempre quelli del Natale. Io credo che, rispetto a quello che diceva lui prima, è proprio vero, le persone, che siano credenti o no, proprio perché chi vive dentro al senso del Natale, facendo il presepe o avendo un atteggiamento particolare, è come se diffondesse intorno agli altri. E che cos'è che si diffonde attorno agli altri? Questo desiderio strano che normalmente lo releghi in quei 2 o 3 giorni lì, che è quello di quella rilassatezza del cuore, quello della comprensione, quello della fraternità, no? Lo so benissimo che a volte per alcuni il Natale è difficile, perché formalmente ti devi trovare con tutte le famiglie, a volte i rapporti sono spinosi, sono particolari, però in ognuno di noi c'è dentro questo senso, questa nostalgia di paradiso, no? È vero. E quindi non è detto che accada sempre, però la cosa positiva è che è un'opportunità che possiamo cogliere, ad esempio proprio questo Natale. Esatto. Tu nel film sei il ricco. Yes. E allora, a chi oggi ha ancora il privilegio di essere considerato tale, che consiglio ti senti di dare? Insomma, qual è il messaggio da ricco a ricco? Beh, da ricco a ricco posso dire una cosa, che la ricchezza è forse un'aspirazione a cui tutte le persone tendono, non tanto la ricchezza ma quanto star bene, il benessere. Questa è una cosa molto legittima, però esiste, non è scientifico, ma ognuno di noi sa qual è il limite oltre al quale tutto diventa superfluo, no? E secondo me quel limite lì è abbastanza basso. Quindi il consiglio è proprio quello, che una volta che uno si è dato tanto da fare, perché è importante, soprattutto per un maschio che non è in grado di generare fisicamente come la donna, lui genera attraverso il lavoro. Quindi una volta che si è realizzato lì, beh, dovrebbe occuparsi degli altri. Perché tanto quello che fa è eccessivamente lussuoso, quindi non serve. E quindi guardare gli altri, poi ognuno di noi trova la chiave, no? Questa è una sorta di vaccino contro quella malattia, possiamo definirla così, che è l'avidità, Alberto, sì, a cui faceva riferimento Giacomo. Sì, io credo che sia, al di là del fatto che magari ce l'hanno raccontato come un peccato, che è una di quelle terribili sciagure autoinflitte che molte persone poi inseriscono nel progetto della loro vita e non riescono più a venirne fuori. Io devo dire che, come psicoterapeuta, mi rendo proprio conto che il tema non è tanto essere ricco o non essere ricco, ma imparare a essere generosi sempre e comunque, prima di tutto con se stessi. Ci sono dei ricchi che hanno veramente tutto e che non si concedono niente, che chiaramente poi non concedono niente nemmeno agli altri, e a quel punto della loro ricchezza fondamentalmente non hanno capito niente, non hanno costruito alcun significato intorno a tutto quell'avere. La vita diventa una corsa frenetica dove accumulano, e in questo senso di nuovo possiamo ripensare al personaggio di Dickens, cioè una vita senza senso, piena di cose ma senza senso. Parliamo di generosità, Giacomo, la generosità forse qualcuno di noi ce l'ha proprio dentro, la generosità si impara anche guardando i bambini, ma si insegna anche ai bambini. Tu come padre come fai? Ma io non lo so se ce l'abbiamo dentro, sì, forse qualcuno forse ce l'ha più di un altro, sì, ce però l'abbiamo. Io preferisco partire dal presupposto che tutte le cose le dobbiamo imparare, faticosamente imparare. Come diceva Alberto prima, a proposito del peccato, dico una cosa piccolissima, la ricchezza, certi atteggiamenti vengono considerati moralisticamente come un peccato, ma per la tradizione cattolica, quando si dice peccato è come dire hai sbagliato l'obiettivo. Ah, peccato, cioè non è quello l'obiettivo. Hai Hai sbagliato la strada, per cui anche qua il convertire vuol dire cambiare strada, cioè tornare ad un obiettivo, e quando lo scopri qual è quell'obiettivo giusto, ti fa felice, quindi non va visto tanto in chiave moralistica, che giudicante, ma no, interessa poco, no? Anche quella lì è una fatica da insegnare ai ragazzini, ai bambini, la generosità, no? E quindi i risultati non li vedi subito, no? Però insomma sì, io credo che il bambino, non lo so Alberto cosa ne pensa, però al di là delle parole credo che serva l'esempio concreto, l'esempio, no? Dei genitori, cioè i bambini vedono i genitori e di conseguenza si comportano forse o in parte. Natale è la festa del dono e anche dei regali, ne avrai ricevuti tanti, e qual è il regalo che avresti voluto ricevere e che non hai ricevuto? Ma no, io sono fortunato, perché il regalo che preferisco è un libro, sono sempre i libri, e quelli non mi mancano mai, no? Non è mai passato un Natale senza un libro, per cui se dovesse mai capitarmi un Natale senza un libro, ecco lì sarei un pochino in crisi. Saresti meno ricco. Esatto. Alberto, con te abbiamo fatto numerose puntate proprio raccogliendo e cercando di fare un percorso di libroterapia. Quale libro suggeriresti o regaleresti a Giacomo in questo Natale? Non l'hai fatto, vero? Devo dire che mi cogli così quasi di sorpresa, ma direi che proprio alla luce, l'abbiamo citato tantissime volte, non so cosa ne pensa lui, ma secondo me il Cantico di Natale di Dickens rimane poi bellissimo, lo conosco bene. Uno dei libri che vale sempre la pena rileggere anche con i propri figli. Proprio un libro che secondo me racconta l'evoluzione intorno alla quale dobbiamo un po' costruire anche il nostro percorso, magari questo passaggio delle feste. E poi è davvero un personaggio che affascina tantissimo. Mr. Scrooge, no? Sì, esatto, Scrooge, ma in inglese vuol dire struggimento? E lì no, Alberto l'inglese lo sa bene, perché è vissuto anche in America, per cui ogni tanto Credo che sia del suo inglese di avarizia, Scrooge, proprio Scrooge. Come uno che tiene tutto e non molla, esatto, niente. Vedi, esatto, che ti raspa anche un po' in gola quando lo dici. Scrooge, vero? Esatto. Senti, Giacomo, prima di salutarci, un augurio speciale agli ascoltatori di Cuore Denari. Sembra una banalità, però mi viene da augurare veramente a tutti, è una parola abusata, ma anche qua soffermiamoci sul significato della parola, sulla serenità, no? Serenità vuol dire stare tranquilli, vuol dire non farci affliggere da preoccupazioni inutili o da obiettivi inutili, per cui ognuno di noi, se si mette lì in tranquillità e cerca di capire quali sono le cose per cui valga la pena soffrire, sbattersi, ecco, secondo me divento un po' più sereno, e la serenità è una cosa che manca, io sento che manca, tutte le persone sono inquiete, sono molto inquiete, molto turbate, perché insomma il periodo non è solo la crisi, non aiuta. Sono è tante un po' paure, tutto, sì, vero, un che po' questa tutto, crisi, sì. E quindi è la serenità quella componente che fa ricco ciascuno di noi, secondo me sì. Alberto, che cosa aggiungi tu? Ma direi che proprio serenità è molto meglio che felicità, perché la felicità alla fine forse è utopia, la serenità invece è equilibrio, e quindi avere consapevolezza di chi si è, facendo tesoro delle proprie risorse e accettazione dei propri limiti. Allora, noi siamo felici di aver passato questo pezzettino di Natale insieme a Giacomo, naturalmente anche a Alberto, però fai gli auguri anche da parte nostra ad Aldo e Giovanni. Li farò. Mi raccomando. Li farò serenamente. Serenamente, e noi ci sentiamo più ricchi. Grazie a Giacomo per essere stato con noi, e voi lo vedrete sicuramente, non è neanche da dire, perché ti vedranno tutti, come hanno fatto in molti, nel tuo nuovo film. Per un Natale, ormai è tutte queste passato, e quindi per tutte le giornate di feste, non solo. Grazie a Giacomo, un abbraccio. Auguri, buon al Natale. Più bello del trio. Alberto, buon Natale anche a te. Buon Natale a tutti. Allora Deborah, anche oggi in questa giornata di festa abbiamo terminato, adesso non ci resta che accomodarci, sederci a tavola per il pranzo di Natale. Abbiamo finito allora proprio giusto in tempo, ma domani torniamo come sempre a partire dalle 11. Allora buon Natale dalla donna di cuore e anche dalla donna di denari, a domani.